Allora, benvenuti, buongiorno. Oggi studiamo nel corso di Halakha del corso Kollel Torah Roma. Stiamo procedendo con la lezione su carne e latte. E oggi affrontiamo un discorso. Il primo discorso che affrontiamo oggi è il discorso di Marit Ha'ayin, ciò che può sembrare diverso da quello che è per esempio qualcosa di parve che non è di latte, ma sembra essere di latte, se questo è un problema per ciò che riguarda il mangiarlo con la carne. Ora vediamo questo aspetto qui della halakha. Ma'achalim stamim parve, dei cibi semplici, neutri parve, che però hanirim che chalavim, che sembrano essere di latte, come per esempio. Si usa molto fuori dall'Italia Malbin caffè, tipo il caffè macchiato, ma non con latte, con un qualcosa di vegetale. E Glidot, spesso abbiamo dei gelati o kezzafot, che sono tipo delle panne parve, creme e panne gelati parve. Afilu bizivei shoko vanil, anche se hanno il colore classico della cosa di latte come cioccolato, crema, eccetera. Mutarim ba'achila barucha besarit. È permesso avere questi elementi e mangiarli anche in un pasto di carne. Piero, qual è la domanda? E latte di mandorla, come è definito? Oh, latte di mandorla, adesso vedremo. Adesso vedremo. Ottima domanda. Ci arriveremo tra qualche secondo. Allora, questi qua, gli esempi che abbiamo fatto, quindi è permesso avere un dolce alla crema parve e mangiarlo dopo un pasto di carne, anche se sembra essere di latte. Ve'en la chashosh mishum maritain, e non entriamo nel sospetto della maritain, cioè di ciò che può sembrare all'occhio diversamente da quello che è. In alcuni casi bisogna assolutamente fare questa premessa seguente, che in diversi casi alachici si fa sì attenzione alla marita ain, a ciò che è visto dall'occhio, e sì, ci sono dei comportamenti che vanno evitati a causa della marita ain. E allora la domanda è: chi decide quando si applica sì la regola della marita ain e quando invece non si applica? Questo lo decidono i Chachamim. Quando i Chachamim hanno applicato la regola, ci sono dei criteri che sono discussi e approfonditi anche dai Poskim odierni, perché oggi abbiamo, come vedremo, delle novità, per esempio nel campo di carne e latte, dove diversi elementi possono sembrare di carne e non esserlo, e viceversa, come abbiamo visto qui, il viceversa nel caso del latte, ma non è latte. Quindi queste cose qui che abbiamo detto sono permesse con la carne. Bichlal ze, incluso in questo permesso, è anche margarina. La margarina potrebbe sembrare il burro, vero? Però non è di latte la margarina, è vegetale. Un mozzarima asuyim, soia, mesoya vekadome, prodotti a base di soia. Abbiamo moltissimi prodotti che sembrano essere altri e invece sono tofu e soia. Ecco qui entriamo un po' nella motivazione. Se questi sono conosciuti e diffusi, cioè se si tratta di prodotti che sono usati in maniera diffusa e sono quindi conosciuti, che possono essere sia di latte che parve, allora non si applica il discorso di maritain ed è permesso mangiarli con la carne, mutar le ochlam in besari o halavi. Oppure, appunto, abbiamo detto nel caso di prodotti di soia, ci sono salsicce a base di soia che non sono di carne, o schnitzel o cose simili che sembrano essere di carne, ma non lo sono, visto che sono prodotti diffusi e si sa ormai che esistono questi prodotti, allora non vige il discorso in questo caso della marita Ain ed è permesso mangiarli per esempio con il latte. Scusa, il discorso è un discorso di principio perché poi si rifà. dell'Italia, no? Dove non c'è tutto questo granduccio, mm-hmm. uno si dovrebbe rapportare a una regola più... Allora, esattamente. Per esempio, in Israele questo sarebbe invece molto diffuso. In Italia, di meno. Beh, se vedi, no? Il cheeseburger qua e li vuoi in piazza, è chiaro che non così. No? Esatto. Esatto, quindi... Diffuso, cioè ti... No, ma se... È diffuso abbastanza per dire che esiste in maniera non proprio limitatissima e quindi rientra, anche se non è diffuso qui come lo è in Israele, perché in Israele a pranzo i bambini mangiano sempre schnitzel del parve, e qui non è proprio così, però dall'altra parte è diffuso abbastanza per dire, nonostante ciò, quello che dice Leo è importante, perché come vedremo nella prossima riga, ci sono alcuni poskim che dicono che anche se è permesso, è bene avere sul tavolo il pacco dal quale è stato preso questo schnitzel, per esempio, perché sia più evidente ancora che è parve, perché dal pacco si vede subito che è soia e non è carne, o simile, come vedremo tra un po' riguardo alle mandorle, il latte di mandorla. Diciamo che alla fine uno dei criteri base sulle quali si basa tutto questo discorso è effettivamente, come abbiamo detto, la diffusione dell'uso in quella maniera. Se venisse fuori un nuovo prodotto oggi che è che è parve ma sembra essere per esempio di carne o di latte, quello che è, forse non sarebbe subito permesso. Se facessero una grande campagna mediatica di pubblicità e tutti sapessero che questa cosa è finta, allora, oppure con il tempo si diffonde la notizia, si diffonde la conoscenza, allora sarebbe più facile. Però è chiaro che dipende assolutamente anche da questo elemento qui, in questo contesto. E di conseguenza arriviamo al latte di mandorla. Vediamo cosa dice. Amevashlim basar bechalav shkedim. Se qualcuno facesse una pietanza dove cuoce la carne con halav shkedim, e cioè con latte di mandorla, cioè proprio lo cuoce insieme, ok? Allora in quel caso, quando mette va a preparare il piatto, chova alehem, è obbligatorio leaniach batzalachat, di mettere nel piatto mispar shkedim, alcune mandorle o pezzettini di mandorle, proprio per indicare il legame tra le mandorle e il derivato che è il latte di mandorla, mechashash le maritain, proprio per il discorso di marit ha'ain. E questo è già scritto nello Shulchan Aruch. Ok? Quindi il latte che potrebbe essere, che è usato in maniera diffusa nella cottura, il latte, la crema, la panna, sono cose che vengono usate nella cottura. Quindi se si usasse il latte di mandorla nella cottura di carne, bisogna mettere delle mandorle per indicare questa cosa. Ci deve essere lì il siman, il segno di riconoscimento. Ugualmente un altro tipo di latte, per esempio sintetico, come diremo, cioè di soia o latte di riso, eccetera, Kmoken halav sinteti, latte sintetico, tra virgolette, shelona futsu mukar, se non fosse di nuovo diffuso e conosciuto, allora enlish totobe malach aruha besarit. È bene non berlo durante un pasto di carne, mechashash le marit, scusa, elaimken, se non che c'è il segno. Quale sarebbe il segno di riconoscimento? La confezione. Manichim liada chalavet arisato. C'è la confezione presente, o c'è la brocca, ma c'è sempre la confezione presente. In questo caso si evita il discorso di marit ha'ain. Ok? E questo è un discorso che viene poi ampliato al di fuori del contesto di carne e latte, quando ci sono oggi che fanno dei cibi che nella forma sono simili a cibi vietati, e anche lì ci si pone la domanda se bisogna applicare o meno la regola della maritime. Per esempio i famosi gamberetti kasher, che si discute moltissimo a Roma su questa cosa. Effettivamente, nel momento in cui noi vediamo un timbro kasher sulla confezione, significa che è accettata dall'Halakha questa cosa. Nonostante ciò, bisogna comunque fare attenzione al contesto. Cosa significa il contesto? Significa, se io propongo questi gamberetti kasher in un contesto dove non si conosce bene l'Halakha e dove questa finezza di opinioni e di contesti e di concetti potrebbe essere non apprezzata all'inizio, perché magari alcuni non hanno fatto ancora certi percorsi di studio di capire come funziona l'Halakha, e quindi potrei trarre in qualche maniera, non in inganno, ma in errore queste persone, o il caso estremo, uno potrebbe dire i gamberetti sono kasher, no? E potrebbe andare al supermercato a comprare i gamberetti maisia che sono taref. Ma questo è un caso estremo. Ma anche in generale, fare un attimo confusione nella mente della gente non è una mitzvah, non bisogna farlo apposta. Però se siamo in un contesto che si conosce, e di nuovo si applica al discorso che c'è la diffusione, la conoscenza del concetto, allora non è taref e sarebbe permissibile. Poi, se uno per motivi personali dice no, io anche se è solo la forma non è obbligato a mangiarlo, chiaramente, però non può neanche dire che se uno lo mangia, mangia taref, perché taref non è. Quindi bisogna capire che ci sono diversi elementi che vengono insieme in un unico piatto, magari, e fare attenzione un po' al contesto generale, anche qualora tecnicamente la cosa sarebbe permessa. Vabbè, ma sì. Lo stesso concetto del kamez, per esempio gli spaghetti non... Oh, oppure abbiamo a Pesach un concetto simile, potremmo avere a Pesach... È diffuso però adesso, visto si mangia adesso è più diffuso, no? Perché abbiamo, ecco... È lo stesso? È simile, sì, assolutamente, perché a Pesach è vietato il kamez, ok? Se io vedo gli spaghetti a Pesach, allora potrei fare qualche errore, eventualmente, no? Potrei dire, ah, ma come funziona questa cosa? Beh, effettivamente sono spaghetti fatti di fecola di patate o di riso, per chi mangia il riso a Pesach, no? Oggi possiamo dire che la cosa è abbastanza diffusa, soprattutto in Israele, in America, è molto diffuso, quindi, ma anche lì, comunque uno fa attenzione al contesto, come per i gamberetti finti, anche per questo, certo. Cioè a Pesach il chametz è taref per il momento, no? Non è taref per sempre, ma è taref per il momento, quindi sì, le regole possono essere simili. Ora entriamo in un altro discorso. Visto che noi, avendo mangiato la carne, dobbiamo aspettare, abbiamo visto, 6 ore prima di mangiare i prodotti di latte, cosa succede se una persona per sbaglio fa una berachà per mangiare un pezzo di formaggio e poi si accorge che ha mangiato di carne prima, però la berachà l'ha già fatta? Allora se non mangiasse ci sarebbe un problema della brachà, del nome di Dio detto in vano, berachà levatalà si chiama. Allora cosa succede in quel momento? Può mangiare per evitare la berachà in vano, oppure deve, così dire, per così dire, lasciare la berachà in vano e non mangiare il formaggio? Vediamo questo caso interessante. Mi sheachal besari, colui che ha mangiato di carne, ubeterem chalfu sheshaot, e prima ancora che sono trascorse 6 ore, itchil lishtot, ha iniziato a bere, per esempio, ha proprio iniziato già a bere, o lechol, a mangiare, chalavi, qualcosa di latte, betaut, per sbaglio. Allora, se così accadesse, yafsik miyad, interrompa subito questo che sta mangiando o bevendo, e si sciacqui bene la bocca. Questo se uno ha già bevuto o mangiato e si è accorto che in realtà è di carne, allora deve sciacquarsi bene la bocca e non, ovviamente non continuare a mangiare o bere. Ora entriamo nel caso che ho indicato prima. Berech betaut, se uno avesse fatto una berachà per sbaglio, betaut, per errore, al halav, su il latte, o mozzarav, o derivati. Mozzar è un prodotto, mozzarav i prodotti relativi al latte, quindi derivati del latte. Toch sheshaot leachilat besari, entro le sei ore da quando ha mangiato di carne. Allora, ha detto la berakha e non sa se mangiare o non mangiare perché si accorge dopo aver detto la berakha. Bemida vechalfa kvar sha'a. Se fosse già passata un'ora almeno, una sola ora, me'az tom achilat basar, da quando ha concluso di mangiare la carne, non da quando ha iniziato, ha finito di mangiare alle due, ora sono le tre. Yesh le'akel, allora in questo caso si alleggerisce per il discorso della berakha, lit om me'at min achalavi, e può assaggiare un po' di quel latticino sul quale ha fatto la berakha, non per fare un pasto adesso di latte, per fare solo quel piccolo assaggio, le inazel mei sur berakha levatala, per non entrare nel divieto della berakha in vano. Quindi se è passata già un'ora da quando ha finito di mangiare la carne e ha detto per sbaglio la berakha su un prodotto di latte, può assaggiare quel piccolo minimo assaggio necessario solo per non incorrere nel problema della berakha in vano addirittura. Questo soprattutto se la carne che ha mangiato non è carne di behemà, di bestia, ma di off, cioè di volatile. Allora ancora più valida questa cosa. Bifrat le'achar achilat off, specialmente se è solo dopo aver mangiato il volatile. Ok? Questo è una halakha interessante. Una halakha molto interessante, perché è molto grave mangiare il latte dopo aver mangiato la carne, eccetera. E nonostante ciò, quel piccolo assaggio, se è già passata un'ora, i poskim dicono è meglio farlo per evitare la berakha levata là, la berakha in vano. Caso contrario? No, dico caso contrario. Con latte. Quale sarebbe il caso contrario? Prima il latte e poi è che non è un volatile, ma è un... Allora si lascia la berakha. Se non è passata quell'ora, allora non si può evitare il problema. Si lascia la berakha, si dice Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, per almeno cercare di recuperare il rispetto del nome di Hashem che è stato detto nella berakha, si dice semplicemente Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, che il nome di Dio sia benedetto. Scusa, non so se c'è, ma questo anche quando è sbagliato Berakha te ne accorgi. Esatto, a volte anche in altri contesti si dice Baruch Shem Kvod Malchuto, ti accorgi di fare una Berakha che non dovevi fare o che non c'entra, eh? Allora all'ultimo uno, almeno come dimostrazione di rispetto, dice Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Ved. Ok? Ora, molti mi chiedono riguardo come bisogna comportarsi con i bambini piccoli, per ciò che riguarda l'attesa e tutto il discorso di carne e latte. Allora vediamo. Tinokot, bambini piccoli. Sheterem malu lahem shalosh anim, che ancora non hanno fatto 3 anni. Mutarim ba'achilat chalavi, è permesso loro mangiare di latte miyad le'achar achilat besari, subito dopo l'aver mangiato di carne. Ma con un'unica condizione, bemida upihem nakim mishare abbasar, che la loro bocca sia pulita dalla carne, cioè che non ci sia proprio carne in bocca. Se non c'è carne in bocca, gli si può dare subito qualcosa di latte quando serve, ma non dargli insieme carne e latte. Ok? Dal terzo anno in poi, dai 3 anni in poi, mi gil shalosh, dai 3 anni in su, nahagule hamtin, si usa fare attendere sha'a achat, un'ora. Di nuovo, non è un obbligo assoluto, si usa per cercare di iniziare ad instradare, ad educare, ma in casi estremi si può alleggerire anche su questo. Mi gil hamesh, dall'età di 5 anni circa, e tutto questo è circa, perché ogni bambino è diverso, quindi non sono incisi nella pietra questi momenti, 3 anni, 5 anni, sono indicativi. Quindi dai 5 anni, shalosh shaot, 3 ore, si inizia a fare aspettare di più. Dopo aver mangiato la carne, aspetta 3 ore prima di dare di latte. Un migil eser, e dall'età di 10 anni, se sono appunto yeled vialda berim, bimbo e bimba che sono sani, e non hanno problemi, grazie a Dio, allora si già si inizia a aspettare tutto il tempo necessario. Mamtinim, sheshaot. Si attendono le 6 ore. Questo significa che se i bambini non sono così sani e hanno bisogno magari di quel yogurt o di quella cosa di latte, dopo, anche dopo aver mangiato la carne, dopo qualche ora, allora si alleggerisce per loro, specialmente se hanno mangiato il pollo di nuovo e non la carne proprio. Ma questo è per la loro salute. Se invece è per godimento così, come un buon gelato, ma non che gli serve per il nutrimento, allora se ha già un'età un po' più avanzata, 10-11 anni, se gli serve, allora si può alleggerire invece di 6 ore, 4 ore, 5 ore, quello che è. Ma se non gli serve solo perché vuole questa caramella, allora bisogna cercare di evitare. Ok? E queste sono indicazioni ovviamente molto generali, in casi specifici ovviamente ognuno se ha qualche dubbio o problema si rivolga al proprio Rav, faccia la domanda specifica, queste sono indicazioni generali. Ora, una persona che sta male, come è la Halakha nel suo riguardo per ciò che riguarda questo discorso dell'attesa? Vediamo. Cholè, un malato, afilo en bo sakana, anche non un malato grave. Quindi una persona che ha la febbre, ha qualche difficoltà, non parliamo di malati gravi. Sheachal besari, che ha mangiato di carne, vezakuk lishtiat chalav o mozzarav, e ha bisogno di mangiare di latte o bere di latte o proderivati. Afilu achal besar behema, anche se ha mangiato proprio carne di bestia, di manzo diciamo, o di simile. Yamtin sha'a achat. Si può alleggerire per fargli attendere non più di un'ora. Dopo questa ora, yechatet shinav hetev, si pulisca bene la bocca e i denti, che non ci siano delle fibre di carne tra i denti, umutar b'achilat chalavi, e gli diventa permesso alla persona malata, gli è permesso il cibarsi di latte. Ugualmente questo discorso del malato si applica a meuberet o menica, ad una donna incinta o che allatta, azgukot le chalav, se avessero bisogno di latte ma hanno mangiato di carne, anche loro possono gestire la propria situazione come secondo il criterio della persona malata. Ovviamente stiamo parlando di quando è necessario. Quando è necessario si può alleggerire in questa maniera. Arehen bichlala eter shelefanenu, sono appunto legate a questo criterio qua. Un'altra domanda che viene posta spesso è che a volte ci sono delle pasticche, delle medicine, dei medicinali nel quale c'è il lattosio o altri tipi di elementi derivati dal latte. Allora la Halakha dice così: mutar le ho, o al contrario, ci sono dei medicinali in cui ci sono dei derivati dalla carne, come dal fegato e altri derivati, altri tipi di fonti di carne. Allora è qui che sussiste più il problema, perché se uno mangia di carne poi non può mangiare di latte, no? Allora dice mutar le chol machalei chalav, è permesso mangiare di latte le achar beliat kadurim, dopo l'aver assunto delle pasticche, dei medicinali amechilim kaved, che contengono per esempio fegato o marchivei basar achirim o altri elementi di carne, ovviamente facendo attenzione alla kasherut. Mikol makom, nonostante ciò, en livlo akadurim el mamash im chalav, ma non ingoiarlo con un bicchiere di latte. usa l'acqua o qualcos'altro che è parve, non direttamente con il latte, ma è permesso mangiare di latte dopo l'aver assunto questi medicinali. E più avanti approfondiremo anche un pochino di più questo discorso. La prossima volta affronteremo invece il discorso del mangiare di carne dopo l'aver mangiato di latte. Finora abbiamo parlato del contrario, e cioè del mangiare di latte dopo aver mangiato di carne. La prossima volta affronteremo il discorso contrario. E vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.